Dato dico solo le ore 15. Radio Città Fujiko è lieta di presentarvi Easy Pop. Conduce in studio Franco Paoletti. Regia del Bolognese Volante. Eccoci qua. Eccoci qua, buon pomeriggio a tutti voi, ben ritrovati, ben sintonizzati sui 103.100 modulazione di frequenza, puntuali alle ore 15. Si sa che la domenica parte Easy Pop, andiamo a esplorare nel mondo della musica indipendente italiana e non il meglio delle uscite discografiche, e diamo diciamo una dritta appunto su che cosa è uscito questa settimana. E a proposito di dare dritte, ho parlato plurale perché al di là del vetro c'è l'insostituibile Bolognese Volante. Buongiorno, di che umore oggi? Buon pomeriggio. Buon pomeriggio, devo aggiustare il microfono perché si è abbassato. Ah, ok, improvvisamente è sceso. Non sta su. Faremo queste cose fra un po', vero? Durante il brano musicale. Allora, dicevamo musica appunto a 360 gradi, daremo uno sguardo appunto a che cosa è successo nel mondo discografico e non solo. Un saluto ai nostri colleghi che ci hanno preceduto, hanno fatto uno specialone dedicato al Festival di Sanremo. Molto interessante. Esatto, vero? Ci stiamo avvicinando. Ci siamo istruiti anche, io mi sono istruito ascoltandoli. Diciamo di sì, perché poi la nostra redazione va sempre a scartabellare le cose più improbabili, impossibili. Quindi facciamo molto veramente ignorante, quindi a me ci vuole poco. Lei so che è ripetente per l'ennesima volta, però insomma non c'è problema. L'importante è che sia qui con noi presenti per la quinta puntata di domenica 5 febbraio 2023. Oggi sì, siamo alla quinta puntata dell'anno e vediamo di dare uno sguardo anche oggi ovviamente alla musica indie, e quindi non parleremo del Festival di Sanremo, magari lo faremo settimana successiva. Ne hanno parlato prima i nostri colleghi. Esatto, quindi non vi annoieremo, invece parleremo appunto di artisti. Iniziamo immediatamente degli artisti indie di oggi che abbiamo prescelto: Due Toni, Ali di Ghiaccio, per così rompere proprio il ghiaccio, vero regia? Bravo Paoletti. Sono stato bravissimo. Non hai nessun peso e non piangerai, non è più un momento, non mi penserai, mentre io mi spengo e non passano mai ferite che c'ho dentro. Non so se tu ti ricorderai di me, non so se ho un futuro davanti a me. Io dico che ho sempre creduto in te, se la vita è ingiusta tu ricorda che sei forte e lei non vincerà mai, non vincerà, non vincerà mai, non vincerà. E se vuoi parlarmi ancora io sarò dietro la porta, anche se il mondo crolla tu ricorda che io sarò con te. E non mi importa se ci starò male, io sarò con te. Non hai le ali, non potrai volare. Quando parli, quando vivi, sembra tempo che mai tornerà. Quando parto, poi mi scrivi, cerchi cose che non avrai mai. Credimi, non ho colpa, sono nato così allora. Io ti grido fallo ancora, perché adesso non mi importa più. Mi dirai di sì, sono qui per te, non puoi mentirmi, ascolto ciò che tu vuoi dirmi. E versi lacrime, non sai mentirmi, io scrivo pagine, sembrano libri. E se ci sono tagli e segni vuoi coprirli, sai possiamo uscirne, tu ricorda che io sarò con te. Se ci starò male, io starò con te. Eh beh, Due Tony ci ha presentato Ali di Ghiaccio, un rapper, so, comunque insomma un ragazzo che ama la musica pop moderno, incentrato su tematiche diciamo molto impegnate, e quindi insomma ci sembra molto molto interessante, e l'abbiamo proposto qui all'interno appunto dei 103-100 modulazioni di frequenza. E a questo punto, dopo aver dato spazio a questo giovinotto, passiamo all'ultima fila, se non sbaglio, vero regia? Sì, una band romana. Band romana ci presenta Gennaio, tratto dal loro ultimo LP, dopo ce ne parla Paoletti, eh? Certo. Eccoci qua con una band molto interessante, l'ultima fila, e ci ha presentato da questo ultimo loro album, questo Gennaio, abbiamo selezionato questo pezzo che ci sembrava molto interessante, una voce che fa molta curiosità, dà molta curiosità, e quindi insomma volevamo condividerla con voi. L'EP si intitola Un mare alla volta, Paoletti. Sì, esattamente così, il loro disco d'esordio ufficialmente, band romana, però attiva dal 2016 e vanta un'intensa attività live, collaborazioni in diversi riconoscimenti, tra cui è stata anche finalista al premio May, vincitrice di Rockaling Festival 2017, e via via insomma stanno ottenendo un grande successo soprattutto insomma fra i giovanissimi. Non è, mi correggo, non è un EP, è un vero e proprio album, perché è composto, sì, da 9 tracce, quindi è un LP, possiamo LP, dire un classico, sì, LP, poi poi magari se dura meno di 30 minuti, no. Magari insomma si può contestare e via dicendo, discorrendo. Comunque questi ragazzi appunto non sono nuovi ai live, so che sono apprezzatissimi, e devo dire che hanno un suono non ben definito, insomma non sanno come, a chi accostarli, tanti hanno detto sono tipo i King of Convenience, insomma vabbè, il nostro rock italiano ci piace anche per questo, quindi abbiamo voluto regalarvi questi scorci appunto di musica molto molto interessante. E a proposito di artisti, andiamo con il prossimo artista che conosciamo ormai, qui viene suonato decisamente molto spesso e gli siamo affezionati. Si chiama Marco Sentieri e ci presenta Sono pazzo di te. Marco Sentieri. Mi piaci così come sei, quando mi prendi in giro mi fai le boccacce e poi te ne vai. Tu ti arrabbi se folle, sei bella ed io ho messo il mantello, ti porto a castello lontano dai guai. Se non ci sei io sto male, come quando vedo un finale di un film d'amore in cui non c'è mai un lieto fine. Se farti desiderare prima di fare l'amore, lo sai, sono pazzo di te, ehi. Hey. Andiamo lontano, penso che ci siamo. Vorrei portarti sopra un'isola deserta con me. E andiamo lontano, verso nuove emozioni che solo insieme sapremo provare io e te. E andiamo lontano, quando vogliamo torniamo. Custodiremo i segreti che non racconteremo. Poi soltanto a Milano, tenendoci per mano, faremo selfie ridendo, questi siamo io e te. Io e te, io e te, lo sai, io sono pazzo di te. Tu mi piaci così, sei diversa dagli altri, non scendi, ma impatti, sei forte, non ti spegni mai. Prima era tutto più grigio, ora invece vedo a colori. Hai tirato fuori la parte migliore di me. Quando mi guardi così, esplode dentro di me una voglia pazza di te, ehi. Andiamo lontano, penso che ci siamo. Vorrei portarti sopra un'isola deserta con me. E andiamo lontano, verso nuove emozioni che solo insieme sapremo provare io e te. E andiamo lontano, quando vogliamo torniamo. Custodiremo i segreti che non racconteremo. Poi soltanto a Milano, tenendoci per mano, faremo selfie ridendo, questi siamo io e te. Non importa la meta, ma importa goderselo in fondo. Io ti porterei anche in cima al mondo per godermi ogni istante. Sono pazzo di te, io ti amo follemente. Marco Sentieri, sono pazzo di te. Non è finito il brano, era una pausa, non siamo più abituati. Ed è subito dramma. Sì, è vero, è così. Ma in realtà subito dramma. No, lo sapevo che c'era questa pausa, questo silenzio. Allora, parliamo di Marco Sentieri, che praticamente ci ha presentato Sono pazzo di te, il suo nuovo pezzo che appunto ci piace molto. È il suo nuovo singolo, appunto, che è uscito proprio in questi giorni. E devo dire che ancora una volta fa centro. Dopo aver appunto, dopo averlo visto sul palco del l'Ariston con il pezzo Billy Blue e aver lanciato i singoli che abbiamo già suonato nei periodi precedenti dopo appunto nelle puntate precedenti ritorna con questo Sono pazzo di te e devo dire fa sempre centro. Beh, si balla qui, è quasi balla nella compilation dance. Questo qui ha cambiato anche un po', è vero, cosa il suono dice, potrei comunque infilarlo nella compilation dance. Comunque lo ricordiamo, nel 2019 con la sua Billy Blue, che ha parlato di bullismo, ha sbaragliato un po' tutti, tutta la stampa, soprattutto gli addetti ai lavori, che lo hanno premiato. Billy Blue è stato proprio un caso di cui tutti hanno parlato, però lui appunto deve il successo addirittura a X Factor Romania, perché è da lì che è partito. A proposito di casi un po' strani, c'è italiani anche all'estero, a proposito di italiani all'estero, c'è una ragazza che viene cliccata moltissimo, si chiama Mele di cognome e quindi sta partecipando e a The Voice in Norvegia, bravissimo, e sta partecipando questa la sapevo anch'io, ma va, sta partecipando con grande successo e devo dire che mi sono anche abbastanza sorpreso, non so perché, comunque insomma questi artisti debbano uscire per poi rientrare dalla porta principale dopo. Ma che perché in Italia cantano tutti? Ma non un lo so. Il popolo di cantanti, è il popolo del bel canto, Paoletti. È vero, di poeti, di santi e di cantanti. Che altro. Ma andiamo avanti, andiamo avanti. Tutto rima in anti. Va bene, andiamo avanti con allora altro gruppo, solo per i soci, che ci propongono Rapina. Lei intanto cosa è una rapina a mano amata? So, Paoletti, adesso legga il preschino. Ascoltiamoli. La farai perché la tua tranquillità saprebbe placare i tremori che ho. Quando mi sento sotto stress, oh no, oh no, con te una rapina la farei, perché ti prenderei tutte le gioie che vuoi, basta che poi le usi con me. Di ascoltarli seduti in giardino di una villa a Dublino o a Marrakesh, oppure in gioielleria saccheggiare giganti, orecchini, pendenti, diamanti e conciarci da ricchi magnati, ma ricchi di amore, con cuori saldati. Come Bonnie e Clyde, come Bonnie e Clyde, come Bonnie e Clyde, come Bonnie e Clyde. Una rapina la farei, basta che se ci prendono ci chiudono assieme, almeno così ci fanno un favore, almeno così non dovremo lavorare per pagarci l'affitto lontani per ore. E poi non sarebbe così male finisse col farci ammazzare, con due sorrisi riflessi in una pozza di sangue, il nostro sangue mischiato, pozione d'amore, dare ai tristi, poveri cuori, soli depressi, uomini soli, vedo venere e capiano gli altri, amori. Solo per i soci, Rapina, una band pop wave romana, come ci spiegherà adesso il buon Paoletti, dove c'è una produzione con Pietro Paroletti, che non è che Paletti, non è neanche sottoscritto, però è una band romana, new wave, appunto il pop new wave, proprio il loro genere musicale, nell'Italand di Roma, e comunque tra gli addetti ai lavori sono già famosi, perché è l'evoluzione di Ernesto e Soci, una band che è appunto precedeva questo nuovo combo. Il gruppo trova praticamente la sua identità musicale tra la musica indipendente, un po' uno sguardo verso la così la new wave americana, e quindi insomma questi suoni così molto esterofili, se così vogliamo dire. Diverse produzioni, diversi singoli sono usciti e con ottimi feedback da parte appunto degli addetti ai lavori e non solo, ed ora preparano il loro album che conterrà anche questo Rapina, e quindi insomma noi ci sembrava carino segnalarla, perché è un suono, infatti non è molto FM all'italiana, molto accattivante da ascolto, piacevole, proprio sì, da ascolto. Sì, sì. E allora li abbiamo voluti selezionare e poi magari per scoprirli insieme via via le loro manciate di brani musicali. Tutte tra l'altro uscite, li trovate tutti i video, attenzione, di certo, loro. Se cercate su YouTube, tutte uscite di questa settimana, Paolette, come sì, quella sì. Che andiamo a proporre la prossima. Sì, allora se non sbaglio arriva Andrea Roccia e ci presenterà Non è facile. Dai ricordi, da quelle sfide che la vita mi ha lasciato, quei sentimenti anche con gli anni, l'amore che ho vissuto un giorno credo sia cristallizzato. Eppure nonostante tutto mi hai lasciato un vuoto dentro, e sembrava tutto grigio, il mondo invece era perfetto. Troppe cicatrici aperte, risanato ormai dal tempo, e idealizzavo in te me stesso. Sai, volevo scriverti ma non è facile, ti accarezzava il vento sulle palpebre, vedevo il sole rosso proprio come te, lo sai non so perdere, dai ricordi, da quei momenti che solo noi conosciamo. Ti prego non dimenticarti. New York sembrava anche più bella, noi due mano nella mano. Eppure nonostante tutto ho sentito un vuoto dentro. E sembrava tutto il mondo grigio e non era imperfetto. Troppe cicatrici aperte, risanate ormai dal tempo. Sai, volevo scriverti ma non è facile. Ti accarezzava il vento sulle palpebre. Vedevo il sole rosso proprio come te. Lo sai, non so perdere. Promesse lasciate al vento per scappare più lontano. E anche se ora prego e dico afferra la mia mano. E se ora ci ripensi rimane solo un bacio pietrificato in un ricordo legato solo più. Andrea Roccia, non è facile. Saluto tutti coloro che ci ascoltano anche in streaming, che pare che abbia qualche piccolo problemuccio. Sì, i nostri tecnici già la stanno lavorando. Macchia di leopardo. Stanno già lavorando, quindi sicuramente si ripristinerà il tutto a breve. Abbiate pazienza. Mentre salutiamo anche coloro che ci seguono via FM, ovviamente certo, il metodo tradizionale in cui Radio Città Fuji si è diffusa e si è fatta conoscere. 33 180 94 94 per i vostri short message. Siamo qui, la nostra redazione è in attesa appunto dei vostri messaggi, saluti, quant'altro. Siamo qui fino alle ore 16, sì. Giusto? Ecco. Bravo. Ho imparato, ho studiato, vero? Parliamo di Andrea Roccia, il protagonista in questo momento di questo brano. Non è facile il brano che abbiamo selezionato, è un Cunege, si dice così, vero? Come fa? Cercavo di fare un po' l'accento così di Torino, va bene. Che non sono i suoi. Sì, infatti, ma io sa che mi lancio in queste cose. Non si lanci, si trattenga. Mi trattengo. Andrea Roccia, il brano introspettivo che abbiamo ascoltato è solo una parte di quello che lui scrive, perché non è un autodidatta per quanto riguarda il formare le canzoni, però in realtà lui è studiato anche al conservatorio. 21 anni, vive in un piccolo paese di provincia di Cuneo, come dicevo, però insomma lui si esibisce ovunque, si è esibito proprio per fare la cosiddetta gavetta, si esibisce ovunque, addirittura si è esibito anche per strada come gli artisti di strada, quindi complimenti, perché ce ne vuole di coraggio dal mio punto di vista. E quindi è arrivata la produzione di questo singolo che insomma l'ha portato così a farsi conoscere. Complimenti quindi a questo artista, che insomma per lui ci sono appunto degli sviluppi ulteriori, quindi sì. Attendiamo buone nuove, come si suol dire, una voce molto particolare che rimane un in brano testa. Molto easy pop, assolutamente, come musicalità. Adesso abbiamo invece Paoletti. Allora, la prossima abbiamo Martina Di Fronte. Marina Di Fonte con Un bacio e Goodbye. Bene, ascoltiamo, ce ne parla. Sai cosa mangio, come mi vesto, ma non sai niente di me. Quello che vedi, quello che posto, è solo una parte di me. Contare i numeri non è quello che conta, e tu parli di me. Ma non mi hai visto una volta e lasci qui il tuo odio, ma ritrovi poi indifferenza. Perché adesso non mi importa più quando dici tu sei zero. Alzo al massimo lo stereo e dici tu non ce la fai. E io ti mando un bacio e goodbye. Sai dove vado? Sai con chi esco, sai quali sono i miei jeans. Quello che sono, quello che sento è molto di più di così. Contare i numeri non è quello che conta, e tu parli di me, ma non mi hai visto una volta e lasci qui il tuo odio, ma ritrovi poi indifferenza. Perché adesso non mi importa più quando dici tu sei zero. Alzo al massimo lo stereo e dici tu non ce la fai. E io ti mando un bacio e goodbye. Un bacio e good. Un bacio e goodbye. Un bacio e good. Ti mando un bacio e goodbye. Bye bye bye bye. Un bacio e good. Un bacio e goodbye. Quelle volte in cui ti sembra che non vali niente, pensi a ciò che poi dirà. Beh, ma chi è questa cantante? Mi piace molto questo stacco, questo ritornello che rimane, no? Come un diciamo un sì, questo è un refrain che ti rimane, che ti risuona nella testa. Papa, papa. Papa, un bacio e goodbye, praticamente lei così risponde all'odio e all'indifferenza con questo concetto, appunto, che riguarda, poi se avete ascoltato il testo, riguarda un po' il bullismo. Lei si chiama, come dicevo, Martina Di Fonte e, se non sbaglio, potrebbe essere la compagna di Clementino. Lei lo sapeva? Io non so neanche che Clementino. La nostra redazione lavora molto bene, grazie, questo spettacolo. Mi piace, è meglio di De Agostino, insomma. Sì. Siccome il tempo incalza, allora velocemente andiamo con la prossima, che poi chiude questa prima parte di Easy Pop. Allora io faccio un refrain, un ritorno serio, perché a presentarcelo il prossimo sarà appunto ad appannaggio di Bracco di Graci, che ritorna alla musica, e questo cantante bolognese che ben conosciamo, perché già era entrato nella scuderia di Lucio Dalla per la Pressing, famosissima etichetta, e poi via via, insomma, ha avuto una sua carriera molto interessante. Si è stoppato brevemente, ma ritorna alla musica con questo nuovo singolo. E a proposito di lui, ci sarà un'intervista prossimamente, quindi prossima settimana nella sua, Paoletti, mia? Sua rubrica, sì, certo, di approfondimento, le interviste di Easy Pop, lei intervisterà Bracco di Graci. Quindi seguite la pagina di Radio Città Fujiko, www.radiocittafujiko.it, musica. Esattamente, Bracco di Graci. Sembra poi convincere. Non vuoi la colpa di ogni cosa. Ti chiudi sempre in quella scusa. Che tanto poi il destino fa come vuole lui. Per ogni analisi sbagliata, per ogni scelta non curata, ci sarà sempre molta vita che non ti sarà scontata. C'è bisogno, sai, di interrogarsi, perché è facile sbagliarsi e fare pace con se stessi, volersi bene a tutti i costi, rialzarsi sempre quando cadi. Siamo un po' tutti come Rocky, così è la vita. Non basterà che ci si impegni per non sentirsi spesso soli. Puoi soffocare i tuoi dolori, ma non vincerli. Diventerà una convivenza che non potrai più farne senza, ma ti ci abituerai e la gestirai. Per ogni scelta non curata, per ogni analisi sbagliata, ci sarà sempre molta strada. Abbiamo veramente bisogno di respirare aria cantautorale. Sono veramente contento del ritorno di Bracco di Graci. Ricorda anche un po' Lucio Dalla in certe sfumature, vero regia? Questo è il nuovo singolo di Bracco. L'avrà sentito parecchie volte, Lucio Dalla, immagino. L'avrà, certo, come si dice, introiettato. Ma sicuramente. Metabolizzato. Però mi piacciono, questi sono gli autori tosti che hanno qualcosa da dire. Non vedo l'ora di sentire la sua intervista, Paoletti. Ci sono grandi curiosità, quindi mi raccomando, seguire via anche social l'intervista, molto molto interessante. Ci ha parlato appunto di che cosa è successo in questo frattempo. Ma fatta parlare, che deve ancora farle. L'abbiamo già contattato, parlato. Io ci ho già parlato, poi arriverà questa intervista vera e propria, però io ho già impostato un po' il tutto, quindi sicuramente è un grande ritorno con io so già ha già preso le misure, certamente. Dobbiamo andare in pubblicità, che è tardissimo. Pubblicità, Paoletti. Rientriamo veramente fra pochissimo, non andate via. Re-listening to Radio City Fujiko, Easy Pop. Potremmo parlarvi dei materiali ricercati e durevoli, della linea e della forma dei nostri arredamenti, ma preferiamo raccontarvi come ci piace rendere la vostra casa unica e disegnata intorno a voi. Bertocchi Arredamenti, una grande passione per l'arredo dal 1964. Personalizziamo ogni vostro ambiente con falegnameria interna per adattare ogni arredo ai vostri spazi, con assistenza post vendita sempre presente e con i migliori brand nazionali come Stosa e Moretti Compact. Bertocchi Arredamenti è in via dell'Intagliatore 15 a Bologna e su bertocchiarredamenti.com. Bertocchi, ogni mobile, una storia. La rivoluzione digitale è arrivata. Da quest'anno è ancora più semplice iscriversi all'ARCI. Scarica la nuova app, scegli il tuo circolo o la tua associazione e ottieni subito la tessera digitale per restare aggiornato sulle iniziative della tua città e scoprire tutti i circoli su una comoda mappa. Non solo, con l'app ARCI avrai anche a portata di click tutti gli sconti e riduzioni riservati ai soci ARCI nei cinema, teatri, musei e locali convenzionati. Scarica la nuova app dell'ARCI dagli store iOS e Android. È gratuito. Quest'anno salta le file e associati subito. A Bologna ci sono più di 800 pizzerie creative, gourmet, da sporto. Ma se io volessi provare il sapore di una pizza tipica napoletana? Te lo dico io. Se vuoi gustare la pizza napoletana verace, c'è Donna Margherita in via Lombardia 13C, nel quartiere Savena. E la pizza com'è? Ma stai pazziando, pizzaioli napoletani, forno a legna, ricetta tradizionale e materie prime campane. E non solo questo, ma di Napoli trovi anche l'atmosfera, sempre allegra, che mette buon umore. Wow, mi sta venendo voglia. E allora yam, ya, Donna Margherita è aperta anche per asporto e domicilio. Cerca pizzeria Donna Margherita sui social oppure chiamalo 051 54 4422. Radio Città Fujiko è lieta di presentarvi Easy Pop. Conduce in studio Franco Paoletti. Regia del Bolognese Volante. Eccoci qua, rientriamo immediatamente nella seconda parte di Easy Pop. Chi vi parla è Franco Paoletti, al di là del vetro, il nostro Bolognese Volante, impegnatissimo, vedo, con bottoni, cursori, quant'altro. Non faccia il furbo, Paoletti. No, lo vedo, la vedo, la non vedo. Non faccia il furbo. Iperpreso, va bene. Puntata numero 5, seconda parte, domenica 5 febbraio. Vediamo di andare con altre nuove proposte. Devo dire, sono tantissime. Iniziamo con Fabio Martorana, nasce in Sicilia nel 1981, città di San Cataldo, provincia di Caltanissetta. Però quest'artista non è solo, diciamo, un artista così, è un artista plurilaureato, ha due lauree, e poi fa anche un po' l'attore, ma non solo. Con il suo debutto musicale ha avuto ben, se non sbaglio, 2 milioni di visualizzazioni su YouTube in pochissimo tempo per un brano musicale, che insomma non è male. Poi c'è da dire che lui fa l'attore, anche un bel ragazzo, probabilmente avrà aiutato, ma sì, non basta, direi. Fabio Martorana ci presenta questo singolo che insomma è cliccatissimo, si intitola I nostri battiti. Na, na, na, na, na, na. certe volte sai, non capisco chi sei. Aiutami a comprenderti. E non credevo però che succedesse anche a noi di sentirci così fragili. Gelido d'inverno dentro di me, un buio accecante che rivedo in te, i sogni svanire insieme a noi. Tu che sei vento che parla di noi anche se non ci sei. A volte sai, sento che sei qui ad ascoltare i nostri battiti. E non pensavo però che dovessi andar via. Vorrei solo riviverti. Angeli d'inverno dentro di me, un buio accecante che rivedo in te, il tempo trascorso è sparire con noi. Tu che sei vento che parla di noi anche se non ci sei. Tu che sei foto che non riempirò. Fabio Martorana, i nostri battiti, molto easy pop anche questo brano. Esattamente così, i nostri battiti, il pezzo che abbiamo ora ascoltato. Cambiamo pagina e andiamo con il prossimo artista, Nicomi, A un passo da te. Ho un quadro per te che ha disegnato Dio. Immagina che ci fossero qui miliardi di persone a chiedermi se domani torni a casa oppure resti ancora lì, anche quando ci dovremmo incontrare. Anche se il tuo silenzio non mi importa più, io ti ricorderò chi siamo noi. Se questa strada ci divide e porta via, resto qui ad un passo da te. Sono qui ad un passo da te. Lontani perché tu sei volata via, immagina che ci fossero qui miliardi di pensieri a chiederti se deciderai di andare via. Ricordati di me che ti aspetto qui seduto in una stanza. Anche se il tuo silenzio non mi importa più, io ti ricorderò chi siamo noi. Se questa strada ci divide e porta via, resto qui ad un passo da te. Per difendere tutto quello che ho fatto per te. Non ritornerai, non ritornerai, anche se domani ricomincio da qui. anche se il tuo silenzio non... Nicomi, ad un passo da te, un altro brano molto molto pop, molto poi, pop, sì. Molto romantico, se così vogliamo dire. Lui innamorato del concetto dell'amore, si vede nei suoi due singoli che ha licenziato per Vaniglia Dischi nel 2022. Era l'ultima volta, e quanto costa. E poi adesso è uscito questo singolo che anticipa l'EP, che si intitolerà Buio, proprio perché lui vuole uscire dal buio, se così vogliamo dire, e vuole insomma essere ottimista e dare vuole speranza. Vedere la luce, vuole vedere la luce, mi sembra sacrosanto. E chi non vuole vedere la luce, Paoletti? Appunto, che me lo chiedo adesso? Anch'io. Abbiamo Simone Tuccio, ci presenta Domani. Bravo ad aprirmi, non lo sono mai stato. Costruisco muri, ho una corazza in acciaio ed un castello di carte dentro la testa. Equilibrio incostante, cuore di carta pesta. E lo ammetto, mi manca quando c'eri tu. Quando ero triste era un sorriso all'ingiù. Vorrei una macchina del tempo per tornare indietro, cancellare ogni dolore, saltare i cocci di vetro. Ti cerco in giro, tra gli altri il tuo profumo. Mi manchi, mi faccio schifo, solo disastri, ma ci riprovo anche domani. Ti cerco in giro, tra gli altri il tuo respiro. Le tue mani, mi faccio schifo, solo disastri, ma ci riprovo anche domani. Chissà se mi pensi o ti è già passato. Non eravamo perfetti, ma un po' ci speravo. Lo rifarei da capo. Passo ogni giorno alla fermata dove ti ho incontrato. Siedo nei sedili in fondo che abbiamo scarabocchiato. Se vuoi ti aspetto al capolinea, anche se è lontano, e spero di incontrarti su ogni mezzo di Milano. Ti cerco in giro, tra gli altri il tuo profumo. Mi manchi e mi faccio schifo, solo disastri, ma ci riprovo anche domani. Cerco in giro, tra gli altri il tuo respiro. Le tue mani mi faccio schifo, solo disastri, ma ci riprovo anche domani. E odio avere rimpianto. Simone Tuccio, Domani, anche questo un brano struggente, ci picchia. Assolutamente, una voce da tenere sott'occhio. Noi l'abbiamo conosciuto con Alaska, uno dei suoi singoli, e adesso si sta appunto già attrezzando per l'album. Simone Tuccio, Domani, il pezzo che abbiamo ascoltato, e devo dire che insomma in poche manciate di singoli già si sta facendo un nome, nel senso nel mondo indie si punta molto su questa voce particolare, anche il suono, visto che col suo team è riuscito a trovare proprio il suono a lui consone, che sta avendo grandi risultati anche sul web. Complimenti a Simone Tuccio. Altra e passiamo proposta interessante. A... Adesso abbiamo tre interessantissimi brani indipendenti. Sì. Cominciamo dal primo, che è già abbastanza conosciuto, direi, no? Sì, un nome che era già nell'aria, che conosciamo, si chiama Lisbona e ci presenta Di Faccia. Mi sono svegliato malissimo perché volevo parlarti. Ti ho scritto 4 messaggi, ma ho preferito lasciarli sotto i commenti di un video dei gatti. Sotto i commenti di un video dei gatti. Dopo ho guardato perché non volevo pensarti. Ma è tutto una merda se penso che sei tutta nuda nel letto di quello che ti avrà spogliata. Lo sai che non parlo ancora, potevi ammazzarmi prima, per colpa tua son bravissimo a cadere per terra di faccia. Pedalo senza rotelle, perché altrimenti mi centri sempre. Tu lanciatrice di piatti, anche

Un bacio. Almeno un bacio, ufficialmente. Esatto. È questo il titolo. Lei ha perso un pezzo per strada, ma non c'è problema. Ho letto solo almeno il bacio. Va bene, è rimasto un pezzo, ovviamente. Succede anche nelle migliori famiglie. Non c'è problema, la correggo io. Matteo Pavano, in arte Frame, è un giovane cantante, cantautore della provincia di Torino, dove ci sono tante cose interessanti in quella zona. Ma in tutta l'Italia ci sono cose interessanti. Ma sì, insomma, ogni regione trova. Distingue per le sue per delle cose particolari, delle loro dinamiche. Devo dire complimenti a quest'artista. Qualche cosa da segnalare di Frame? Sì, come no, ha iniziato a lavorare fin da quando era quindicenne sulla musica, e devo dire che piano piano ha avuto le sue soddisfazioni. Adesso è sotto contratto con la Sorry Mom, quindi insomma viene curato sicuramente bene, ha trovato appunto ad accasarsi in questa etichetta discografica che lo sta curando molto bene a livello anche sonoro. Due sono i singoli finora usciti, questo invece è il suo terzo, e devo dire che questo insomma è quello che presenta per quest'inverno. Almeno un bacio, Frame con noi. Bene, adesso viene a trovarci invece un altro personaggio già di cui conosciuto indie pop, assolutamente, si chiama Dente e ci presenta La vita fino a qui. Dente. Sono uscito dalla nebbia, dalla galera, dal ventre della balena, in abito da sera. Sono finito ad una festa, un lungo sabato sera, in una vita vera, con la luna sempre piena. Cosa c'è che non va? Cosa c'è di diverso da 20 anni fa? È la stessa solitudine, le stesse nuvole che non si muovono mai, non si muovono mai. Sono uscito a mezzanotte, anche se non volevo. Ho fatto colazione con il veleno e mi fa male la testa e mi volto di schiena. O esco di casa o esco di scena. Ma cosa c'è? Cosa c'è di nuovo? Cosa c'è di diverso? Solitudine, le stesse nuvole. Che non si muova. Sono uscito dal tuo letto senza una meta, senza occhiali da sole e con la luce accesa. Elegante come Lucio Battisti, come qualcuno ha scritto, è tornato dopo 3 anni praticamente lui, Dente, con questo progetto, con questo brano che anticipa il nuovo disco di Dente, appunto, a cui uscirà tra un po' di tempo. Questo è solo elegante l'inizio. Elegante è quello che mi viene, come mi viene da definirlo anche a me, elegante, molto. Assolutamente così, dopo 3 anni appunto di silenzio ritorna con un progetto davvero interessante, con collaborazioni importanti. Di più non so che cosa dirvi, tranne che appunto sarà licenziato dalla Inner Ear Records, distribuita dalla Virgin, quindi insomma un'etichetta molto importante e molto attenta soprattutto ai testi, insomma queste cose insomma molto particolari. Basta, alle liriche, non dico altro, alle liriche. Adesso certo, chiudiamo non dico altro. Con un brano internazionale. Si tratta degli All the Time, certo, che ci propongono Are You Feeling Me Now? Dopo ce ne parla. All we ever do is argue. You play too many games for me to want to stay beside you. How can you be so blind and bleed, but you can see my sorrow? I'm standing by your side, nowhere I wanna be tomorrow. Are you feeling me now? How I felt and the vows that I made you. Now I wish that you were dead. Keep repeating I'm the one that betrayed you. You play with my mind. Your lies are just too many to swallow. You think that I'm see a future that's hollow. Are you feeling me now? Time, are you feeling me now? Ha qualcosa da dirci sul brano, Paoletti? Si è preparato nel frattempo? Sì, tornano loro con questo brano che è in una versione un po' remix, come dire, un po' rallentata con DJ Bizzo, che è appunto si trova appunto nel mondo della dance, anche qui frequenta anche queste discoteche e insieme gira appunto le discoteche sia DJ Matt Mind. Questa è una versione un po' così lounge, molto tranquilla di molto Are You lounge, Feeling sì, Me sì, Now sì. Che è invece più scatenata, rivista e corretta insomma da i due DJ che hanno rivisto la stessa partitura in versione diversa per la Jungla Records. Quindi che dire, complimenti, perché insomma non si sa quale scegliere, se l'una o l'altra. Puntata numero 5 di oggi, domenica 5 febbraio, Paoletti, conclusa. È già andata, io mi stavo divertendo tantissimo, ma è proprio contenti. Volata. Speriamo esatto. Che si siano divertiti anche coloro che ci hanno ascoltato, lo speriamo vivamente. È il nostro scopo in realtà. Noi ci proviamo, facciamo del nostro meglio. Certo. Per riascoltare la puntata o le precedenti o le puntate degli altri redattori di Radio Città Fujiko potete cliccare sul sito della radio www.radiocittafujiko.it. nella cartellina musica troverete le nostre puntate come quelle di tutti gli altri redattori della radio. Sì, troverete gli spin-off, troverete tante tutto. Di quel materiale, concerti, quant'altro, quindi non vi resta altro che fare un buon lavoro. Alle corrispondenze di Dani Corraucci alle ore 16:30 e seguirà subito C'era una volta il West, la rubrica curata da Amalia Picella, che è qui di là. Che salutiamo, sta lavorando in redazione. Sta lavorando per voi. Eh sì, certo. Allora, che dire, che anche oggi abbiamo chiuso, sbaracchiamo, ci ridiamo l'appuntamento fra 7 giorni, ovviamente. Non so con quale tipo di puntata, visto che non saremo lo so. Imperversa. Vedremo di avere qualche collegamento, qualcosa. So. Qualche gossip. Vedremo, dai, vedremo, insomma, vedremo. Faremo del nostro meglio. Cercheremo di sopravvivere a Sanremo. Certo. Buona domenica e buona settimana dal Bolognese Volante. E da Franco Paoletti. Bye bye. Bye.